vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma ce vado io, non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Lucia, ci vogliono ancora 30 minuti per la zanzara, non ce la faccio più. Vabbè, vado a Mignotte, va, ci vediamo alle 6:30. Vi giuro, ho provato ad uscirne con tutte le mie forze, ma non ce l'ho fatta. La zanzara mi è entrata dentro e non esce più. Allora ragazzi, io ho un nuovo mito, caro Parenzo, io vado, vado avanti per miti quotidiani. Il mio nuovo mito si chiama Bello Figo. Ti sembrerà strano. Sì, ma semplicemente perché sputtana gli immigrati, è molto semplice. No, ma non è perché sputtana gli immigrati. Intanto buonasera da Madrid. Ma chi se ne frega, non dire che stai a Madrid a fare il weekend in un albergo dove c'è anche la spa, ci sono un sacco di cose. Non lo dire. Beh, c'è la spa o no? Beh, per forza, non posso frequentare alberghi senza la spa. Ottimo, mi sembra... C'è da contratto. Però sono venuto qui perché devo incontrare il presidente Rajoy, Mariano Rajoy. Vai a cagare, tu il presidente Rajoy. Stai facendo semplicemente un weekendino a Madrid. Una vacanzina a Madrid, amico mio. Non ho capito, dove devo andare? Dovresti stare a casa accanto agli immigrati, fare il suo volontariato in periferia, accanto agli immigrati. Certo, il populi. Devi fare... Ecco, ti annuncio questo. Sì. Andrò, adesso avrai la data precisa dei prossimi giorni, sarò in diretta per la zanzara anche. Dove? Da Lampedusa. Ma chi te l'ha chiesto? Ma non te l'ha chiesto nessuno. Lo annuncio pubblicamente. Ma chi se ne frega? Sì, il 12 dicembre. Ma non arriva più nessuno a Lampedusa. No, sarò a Lampedusa con il dottor Bartolo, dove racconteremo, peraltro, te lo preannuncio. No, ma non me ne frega niente adesso. Non me ne frega nulla. Dal cuore degli sbarchi. No, ma la realtà vera è che tu, invece di stare a Madrid a fare il weekendino con la spa, dovresti essere accanto. Perché ho visto una cosa nell'albergo spa, hotel spa, c'è proprio scritto grosso, non manco piccolo scritto. Comunque, la cosa fondamentale è questa. No, beh, la realtà è pauperista. Ma no, non sono pauperista. Populista. Mi sembra di stare dalla vostra parte, lì da Del Debbio. Devi andare. Invece di passare i weekend costosi, peraltro, molto costosi, fuori dall'Italia, dovresti fare volontariato presso centri sociali, presso comunità di recupero. Il 12 dicembre sarò a Lampedusa. Ma che me ne frega, ma vai a Lampedusa, in albergo c'è 10 stelle. No, a Lampedusa sarò lì a raccontare un grande progetto che si sta costruendo con l'Autorità di Frontiera, formazione dei medici per i migranti. No, racconteremo questa grande storia popolare. Il grande personaggio si chiama Bello Figo, ieri ospite della Zanzara, in serata protagonista di una battaglia pazzesca dalla vostra parte su Rete 4, naturalmente in prima serata. L'hanno contrapposto alla signora Mussolini. Ora, la bellezza di questa roba qui è che in realtà erano tutti contro di lui. E quello se ne sbatteva i coglioni, rideva con la lingua di fuori, faceva se ne fotteva delle critiche, erano tutti contro di lui, quelli del PD, perché chiaramente c'era l'immagine dell'immigrato, no, che sputtana i clandestini che arrivano dicendo vogliamo il wifi, rubiamo le biciclette, eccetera eccetera, tutti contro, meraviglioso. Bello Figo canta tutte le cose che fanno arrabbiare gli italiani quando parlano di immigrati. Come l'è venuta questa idea? No, perché io penso che comunque sia, se si parla di immigrazione si parla comunque di vite umane, quindi comunque io mi sento come loro, li vedo come i miei fratelli, quindi mi sento in modo, io lo faccio tramite le canzoni per difenderli un po'. E le cose che richiedono le canzoni sono, io conosco un paio di amici. Ma cosa dice? Ma cosa dice? Calma, lo fa. Uno che fa così è da prendere a calci, perché è una provocazione ai cittadini italiani, hai capito? Ma vai a lavorare, togliti quel ciuffo biondo! Ma le rifaccio ancora di più. Ma vai a lavorare! Vai a lavorare! Vai a lavorare ancora, Mussolini! Le cose che richiedo, ho un paio di amici nel mio quartiere che sì, hanno bisogno, perché anche loro sono degli esseri umani, hanno bisogno del wifi per connettersi in internet, hanno bisogno del cibo buono e tutto quello che richiedo. Scusi, l'obiezione che fanno gli italiani è di andare a rubare quella brutta, si paga il wifi, si paga canta. Il cibo buono, si paga l'affitto. Ma come si permette? Sto dicendo che non è, se c'è un problema non c'è da prendersi con una persona, se perché una persona sta in difficoltà, in più non bisogna prendersela in colpa la persona. Le donne, ma sì, vai sì, nel tuo paese, nel Ma questo Ghana, è il mio paese. Come faccio a andare? Vai questo nel è il mio Ghana, paese. Come vai a cantare là che ti mettono in galera. No, no, qui no, ci puoi stare. Ma cosa stai gli dicendo? Italiani vanno in galera e tu ridi. Ma guarda, io non rido perché italiani vanno in galera. È molto grave che tu fai soldi sulla pelle degli italiani. Certo, vergognati. Certo, come no? Vergognati. Di Giorgi. Beh, meraviglioso. Quello dice certo e rideva. Fai soldi sulla pelle degli italiani. Ma è italiano. Che pelle degli italiani? È italiano. È incredibile. È meraviglioso. È un genio perché piglia per il culo. Sì, certo. E guadagna un sacco di soldi semplicemente perché la gente si incazza. Più la gente si incazza, lui più guadagna. Pazzesco. Pure a quello piace. No, è stupendo. Cioè, non gliene fotte un cazzo di nulla. Ma non aiuta la battaglia che dobbiamo fare per i migranti. Però il 12 dicembre racconteremo la verità. Poletti. Il ministro o Poletti quell'altro? No, Poletti era ieri contro Bello Figo, pure lui. Senti. Io difendo chi invece incitano allo stupro. No, io difendo che le sue canzoni, le altre, quelle che non possiamo. Dopo se le troviamo vi faccio sentire qualche altra. Mi faccio sentire se riusciamo a trovarle, se non riusciamo a trovarle qualche altra canzone. Qualche altro passaggio di Bello Figo. Va bene anche lei. Mussolini, cosa voleva dire? I pagliacci, va bene anche lei. A un certo punto interviene un mediatore culturale, un tale Modugay, come cazzo si chiama, nero pure lui. Senti che cosa gli dice. Tutti contro, Bello Figo, per questo mi piace, tutti contro. Modugay, che dice? Lei è un mediatore culturale, posso? L'ha sì. sentito Bello no, Figo? Allora, questo Bello Figo, veramente da dare due calci in culo, sì, perché anche il suo comportamento indecente, indecente. Questa strumentalizza veramente, usa gli migranti. A me fa girare i coglioni, scusatemi il termine. E abbia pazienza, siamo ancora in una fascia protetta, quindi modera il linguaggio. Su serio, che lo so che lo fa per fortuna che lei è di stanze, non rischia niente. Hai capito il mediatore culturale, sì. Il Modugay, il mediatore culturale. Ma è una figura essenziale quella del mediatore culturale. Da prendere a calci nei coglioni, mi fa girare i coglioni. Bel Pietro che diceva: fermo, qui siamo in fascia protetta, siamo in fascia protetta. E allora perché lo invitate, scusa? Dai, su. Allora, è successa una cosa, caro Parenzo. Salvini, sì, in uno dei comizi di chiusura... Ma non vuoi sapere come qui a Madrid sentono il referendum italiano? No, non me ne frega niente, nulla, non gliene frega un cazzo a Madrid del referendum italiano. No, esattamente, volevo dirti questo. Allora, Salvini... Non gliene frega niente a nessuno. Comizio di chiusura... Aspetta che mi stanno portando dello champagne, scusami un secondo, prego. Aspetta, prego, fai entrare lo champagne. Venite Spero pure, che sia Crystal almeno Crystal. No, almeno Crystal. È roba superata. Salvini... No, it's not cold. It's not cold. Go. I don't want this. It's not cold. Scusami. Allora, Salvini... Era abbastanza freddo. Sì, abbiamo capito. Sì. Salvini con un bambino che lo avvicina, senti. Ciao, ragazzo. Ciao. Forza Mila. Ciao. Complimenti. Grazie. Ciao, complimenti. Grazie. Non vogliamo gli extra comunitari. Numero uno. Cioè il bambino dice no, vogliamo gli... No, non ha detto no, così. Questo non è vergognoso. Vergognoso. Andrebbero dai. Fermati i genitori per questo. Devo dire la verità. Ma allora, che razza di genitori sono quelli che insegnano queste cose a un bambino? Io non voglio entrare nel bambino merito. Dice non vogliamo gli extracomunitari. No, ho capito, ma ti sembra normale che un genitore insegni questo a un bambino? No, No, adesso seriamente, perché ti sembra normale? Non mi sembra normale che uno lo porti a un comizio politico. Quello... Ma questo cosa c'entra? Questo io andavo anche. Secondo me comizi. Salvini avrebbe potuto rispondere: senti, non è affare tuo, vai a giocare con la PlayStation. Insomma. Invece è tornato indietro, come senti, tu hai documentato senti, nell'audio. Senti, senti, no, è tornato indietro una seconda volta. Apposta. No, aspetta, lo hanno rifermato ancora su questo. Senti. Ma vabbè, vabbè. I bimbi sono la bocca della verità. Non è un po' troppo esagerato? Eh? No extracomunitari significa... Significa che ce ne sono troppi? No, no, significa che ce ne sono troppi. Se lo capisce un bimbo che avrà 6, 7, 8 anni, evidentemente lo possono capire anche gli adulti. Ma no, caro Matteo, non lo capisce un bimbo. È una cosa che ha sentito dai genitori, appunto, ha sentito alla televisione. È come una storiella che si ripete. È andato là a dire: non vogliamo gli extracomunitari. No, ma lui, Salvini, non era quello che in passato disse a quelli di sinistra che portavano i bambini in piazza: non si usano i bambini? È un po' diverso, perché non è che l'ha portato sul palco, eh? Non l'ha portato sul palco. Però certamente i genitori che l'hanno portato là erano belli indottrinati. Comunque io dico: ma che genitori sono quelli che insegnano a un bambino che non vogliono gli quello avrà sentito a casa una cosa in televisione, avrà sentito dai genitori ci sono troppi extracomunitari, l'avrà ripetuto, magari l'avrà sentito decine di volte. Bello a te? Vabbè, quindi, sembra bello? Cioè, uno ha il diritto di dire che non vuole gli extracomunitari, oppure oppure non possiamo dirlo? Cioè, uno lo può anche dire, no? Cioè, poi come educa un bambino sono cazzi suoi. Stiamo ai fatti. Qui Salvini incontra un bambino che gli dice, ecco, una cosa. Secondo me Salvini avrebbe dovuto dire: no, numero uno al bambino, esatto, amico mio, occupati della PlayStation, esatto, questa è roba di adulti, non è roba che riguarda i bambini. Quello sì, ma quello, l'educazione che danno i genitori al bambino saranno cazzi dei genitori. Ma io posso dire che trovo incredibile che io vorrei dirlo? Che lo dicesse prima o poi tua figlia, lo dirà. Tua figlia, la più grande, prima dirà: non voglio gli extracomunitari. Beh, non voglio. Mi interrogherei molto sul modello educativo. Dirà: non li voglio a Siena gli extracomunitari. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Non lo dirà mai mia figlia, perché sì, non è stata dirà, educata. Non è stata educata in questo modo. Ed ora Donald Traffico. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta La Zanzara. Allora ragazzi, notizia che arriva dall'Emilia Romagna, in particolare da Rimini: è un 34enne senza fissa dimora, con precedenti per rapina, straniero, clandestino, è già ospite di un centro sociale di estrema sinistra, sembra, che si chiama Casa Madiba. E praticamente l'identikit dell'uomo arrestato a Rimini per violenza sessuale su una bambina straniera di 6 anni. Beh, un criminale. 6 anni, 6 anni. Dico solo questo, 6 anni. Criminale. De Luca, De Luca, De Luca, senti il governatore del mondo, senti che dice, però secondo me delle cose assurde. Dice innanzitutto che non ci sarà l'immunità parlamentare per i nuovi senatori, cosa non vera, ma anche perché lo ammette pure lui. Senti. Sento parlare di immunità parlamentare che non esiste, oggi c'è semplicemente l'intervento delle Camere per autorizzare perquisizioni, intercettazioni, arresti, ma l'iniziativa giudiziaria può andare avanti nei confronti di chiunque senza nessuna autorizzazione preventiva né della Camera né del Senato. Quindi c'è semplicemente un elemento di tutela doverosa nei confronti dei rappresentanti dei cittadini. Però, caro De Luca, non è vero, perché lo dici, perquisizioni, arresto, intercettazioni, è l'immunità parlamentare di cui si tratta, cioè è questa roba qui, cioè, ma che vuol dire? No, lui dice che si deve comunque chiedere, ovviamente. Vabbè, ma quello è chiaro che si deve chiedere, cioè, no, ma nel merito. Ma ragione, sì, ma non è un'immunità totale, ma è chiaro che si deve chiedere. È comunque è una situazione diversa rispetto a quella di un cittadino normale, cioè è una situazione comunque diversa, è un privilegio che ancora resta, e soprattutto resta per i senatori futuri. Dicevano che sarebbe stata cancellata, invece per i senatori futuri, cosa che non hanno adesso, perché i consiglieri regionali e non i sindaci hanno alcun tipo di immunità, e invece adesso avranno l'immunità da senatori. C'è poco da fare, è così, c'è un fatto, poi uno se ne può fottere e votare sì lo stesso, però è un fatto, De Luca non lo può negare. Se i cittadini votano no, dopo non c'è niente. No, caro De Luca, non è vero, non è così. A me mi stanno sui coglioni queste cose apocalittiche. Non è vero. Se la gente voterà no, camperemo come prima, non cambierà nulla dal punto di vista pratico, all'italiano non cambierà nulla. Sì, si aprirà una fase, un po' di caos, di casini, il governo tecnico, il Renzi resta, il Renzi non resta, e un po' di instabilità, ma alla fine non cambierà un canone. Ma tu dici che il sole sorge lo stesso. Ma sì, ma la gente avrà a che fare con i soliti problemi quotidiani, e d'altra parte se vince il sì non è che... Toc, cioè, tu dici non cambia nulla, Poletti sarà sempre collegato da piazze urlanti, sì, qui esatto. Chiamerà sempre Donato da Varese, Mauro sì, da Marche, sì, non sì. Cambia nulla. Tu ma dici? No, ma anche se dovesse vincere il sì, cosa che sembra ecco, improbabile. Se dovesse vincere il sì, mi prometti che non chiamano più Mauro no, da Varese? No, ma non me ne frega niente. Fai una promessa, fai no, una no, roba. La realtà, ma no, perché mica faccio il tipo per il sì, ho detto che voto scheda bianca. Se il punto, no. Ah, già, se il punto fondamentale è un altro, è un altro, che uno dice se vince il no... C'è il caos. No, se vince il sì, tutto risolto. Non è vero non nulla. Non lo credo neanche io. Niente. Cioè, se vince, se dovesse vincere il sì, cosa sai improbabile come sembra, poi magari no, tutto non lo so, io, sarà io ribaltato. Non succede niente di pratico, non succede niente, non è che tutto la bacchetta, non è che le tasse diminuiscono subito, che è l'unica cosa che interessa all'Italia. Non è che diminuiscono queste cose immediatamente. No, non è così, dai. Se i cittadini bocciano il referendum, non è che dopo c'è la riforma perfetta, dopo non c'è niente, cioè ci teniamo l'Italia così com'è per altri 50 anni. Allora, Berlusconi vuole dare la pensione alle mamme. Ma scusa, Berlusconi, mica stiamo al coso però qua. Mica stiamo alle elezioni politiche, questo è il referendum. Berlusconi, la pensione alle mamme. Dopo aver lanciato Del Debbio come candidato premier come Trump. Come Trump del centrodestra, la pensione alle mamme. Bah. Questa che dico adesso ha tenuto una standing ovation. Bisogna dare la pensione a quelle persone che lavorano non solo durante la giornata, ma che lavorano anche la sera, che lavorano il sabato, che lavorano la domenica, che lavorano qualche volta anche di notte, che lavorano durante le ferie e non fanno ferie e non sono pagate, alle nostre mamme che devono avere una pensione, una vecchiaia serena. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente, nulla, niente, zero. Ma ragazzi, è incredibile. È incredibile, non siamo alle elezioni politiche, non c'entra nulla, cioè è sempre un continuo promettere le mamme, la pensione alle mamme, dai, cose pazzesche, dai. Ah, ragazzi miei, mi continuano a arrivare messaggi di persone, sì. Di persone che mi mandano la loro scheda elettorale votata. Uno mi scrive dalla Norvegia dicendo: io ho fatto votare il mio collega norvegese, e mi manda la foto del collega norvegese che a caso vota per il sì o per il no, adesso non beh, mi ricordo male che ti abbia mandato la foto, malissimo. Ma che dici, dai, malissimo, come Briatore, avrai visto, no? Briatore ha fotografato. Ma e allora? Ma è la è la prova, è un reato, è la prova certificata. Ma è la prova di che cosa? Che è un il reato. Voto all'estero è una truffa, perché non è. Ma quale truffa è? Ma è una truffa perché non è un voto segreto, è palesemente un voto non segreto. Ma furbo d'un furbo, non è più segreto se pubblichi la foto, anch'io. Ma guarda che posso fare la stessa cosa io, domenica io atterro alle 9, vado al seggio alle 10:30, il fotografo, non fai? Lo farò ovviamente, posso anch'io fotografare dentro il seggio. Non lo puoi il fare, voto. Non lo puoi fare, mentre è tu... Uguale, è lo no, lo non è la stessa cosa, dall'estero. È molto più facile farlo. È identico, è molto più facile farlo con il voto ma all'estero. Ma non è vero, io posso mettermi in tasca il mio telefonino, andare dentro l'urna elettorale e fotografarlo. Vabbè, ma Gerardo da Bologna, vai Gerardo. Dimmi. Ma chi è Gerardo? Gerardo. Dimmi, Gerardo Greco, Dimmi. Senti? No, non è Greco. Dai, Otto. Gerardo, dimmi, su. Non ti sento bene, scusa. Sono cazzi tuoi, dai. Pure i tuoi. Dai. Non senti niente. Dimmi. Volevo semplicemente capire qual è il tuo atteggiamento che hai avuto quando hai detto è un grande, questo bello tipo. Non volevo capire che cosa significa un grande. Ma ragazzi, è un grande, cioè fai i soldi su queste cose qua a 24 anni. Ma cioè, non è che è un grande. È un grandissimo. Sfrutta l'ignoranza della gente. Ma che sfrutta l'ignoranza? Fai i soldi con il rap. Fai i soldi con il rap utilizzando alcune... dicendo cazzate, utilizzando alcune frasi che vengono dette dagli immigrati e facendo incazzare tutti, dalla destra al PD, gli immigrati quelli normali, eccetera. Questa è la realtà, fa incazzare tutti, se ne fotte, fa quello che vuoi fare tu, fare i soldi e andare a donne. Cioè, perché questo tu vuoi fare nella vita, dunque fa quello che tutti vorrebbero fare, fare più soldi possibile e andare con le donne, punto e basta. Cioè, che cosa fa? Ci piglia tutti per il culo, non cliccatelo, non ti piace? Non cliccatelo, cioè, punto e basta, è inutile che ti incazzi. Ciao, sono Enrico Ruggeri, tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Quando passo sui cavalcavia in autostrada, le congiunzioni non fanno tutum, tutum, tutum, ma... I nani, i nani, i nani. Sulle rive del fiume, li avete visti? Li avete visti? Ti giuro che la gente mi chiama impazzita perché ha riscoperto questa canzone che in pochi conoscevano. Del mitico Richard Benson. Sì, Riccardino sarebbe. C'è gente che non può farne a meno. Dice: io vado in ufficio, vado in ufficio e ho in testa continuamente questa canzone. I nani, i nani, i nani. Il mio commento sui nani, aspetta, perché voglio che tu lo senti bene, perché è una cosa a 5 stelle. Ma no, no, dai, no. Hai sentito o no? No, no. Hai sentito o no? A 5 stelle, uno sciacquone a 5 stelle. Li avete visti? Li avete visti? Li avete visti sulle rive del fiume? Richard Benson! Di quanto avresti bisogno al mese per campare bene, diciamo, per stare decentemente? Direi 3.000 euro al mese, sì. Tu, in questo momento qua, in banca, nella tua conto corrente, a meno che io non c'è... Io in banca non ho niente, ti ho detto. E tua moglie? Non falla arrabbiare. E mia moglie non c'ha un cazzo. E i denti, ho visto? E i denti me l'hanno buttato una lattina contro i denti, il pubblico, sì. E si sono tutti distrutti. Che lo facciamo guadagnare con la SIAE. Vai, vai. Senti una cosa, ma quante fisiche, sigarette e fumi al giorno? E che te frega? Ma è così, beh, insomma, bisogna dire che diminuire. Che te frega di quante sigarette e fumo al giorno? No, t'ho visto con le mani che erano molto piene di nicotina. Dunque sicuramente saranno un pacchetto e mezzo, due addirittura. Io fumo quanto mi pare, faccio quello che mi pare. Io mi ritengo un uomo completamente libero. Non me ne frega un cazzo. Bravo. Di quello che dicono i medici. Bravo, bravo. Durante la notte non riuscivo a dormire. È vivo, altro che morto. Ma è vivo, sono normale. Vivo, sono vivo. No. Basta! Ma sta male! Ma... Mamma mia! Oh! Le rive del fiume, li lo so, sono dipendente da questa roba, lo so. No, ma io ti capisco, ma non ho capito. Cos'è che dobbiamo vedere lungo le rive del fiume? I nani, i nani. E cosa farebbero? Ma le canzoni non è che sono tutte traducibili in qualcosa di concreto. No, lo so, non ho fatto l'esegesi, la farò della canzone di Benson. Ho capito, ma Bob Dylan ha scritto delle canzoni che ancora oggi... Ma non è vero, anche lì si capisce cazzo se vai a vedere testualmente. The answer is my friend, l'ha capito? La risposta è mia amica, la risposta nel vento. Ha scritto, i nani... Chi deve vederli poi? Li avete visti chi? Quali aspetta, nani? Aspetta, che non è finita! E non è finita la settimana della... No, in realtà sono passati 10 giorni. Li avete visti? L'epopea Benson, insieme alla moglie, naturalmente, la mitica sì, Esther. Che coppia, ragazzi, Esther, che coppia. Malata psichica, Da D'Urso mi ha detto, però tu vai al bingo, giochi al bingo. Questo non è bello, però, Lo so, ma è l'unico svago che ho, caro. Io non ho altri svaghi. Lo so, amica mia, però uno dice che gli mancano i soldi, eccetera, e poi va al bingo. Questo è sì, buono. Però il bingo io ci vado con i soldi di mia sorella. Cioè, non è che utilizzo i soldi della famiglia. Beh, ho capito, perché non sono della famiglia. Però mia sorella ha una famiglia e io e Richard siamo un'altra famiglia. Sì, canto solo il mio dal vivo. Nuda pure, con le tette di fuori ho visto. Con le tette di fuori. Beh, sì. Vabbè, ma che vabbè. Famiglia è, ragazzi? Perché così faccio felice il mio pubblico. Belle grosse cadenti ho visto, no? Quello. Ho 54 anni. Ma che cosa anni. C'è di artistico? Cosa c'è di artistico? Ma com'è? Cosa dite? Cosa ma dite? Non lo so, è simpatica è come cosa. Ma assolutamente, sì. Ma come simpatica? È una cosa simpatica. Com'è una che cosa si fa? Che fa ridere il pubblico. Bra, ecco. Pronto? Sì. Sì, come stai innanzitutto? Pronto? Che non so molto bene. Che è successo? C'ho problemi al cuore. No, ma questo lo sappiamo. Non riesco a respirare bene. No, ma oggi che c'hai? Niente. Ma che te frega, scusa? No, quello che c'hai di fondo lo so. Non capisco come stai oggi, scusami. Allora perché ridi, scusa? No, rido perché ci siamo... Come ti permetti? No, non sto ridendo, sto sorridendo. Sto sorridendo, per carità, non mica rido... Ti saluto, ciao. No, non ma... me ne frega un cazzo. Ciao, ma non rido ciao. Perché stai male, per carità. Non riuscivo a dormire. Non riuscivo a prendere... Fermo. Ma che è successo? Oh. Fermo! Ma che su... Oh, madonna! Mi bianco con... Allora, ragazzi, andiamo... Avete visti... Ma chi è che urla? Li avete visti... Li avete visti sulla riva del fiume. Ma quale riva? Non ci riesco, che... non ne faccio... Di notte vado con sto ritmo qua. No, ma poi c'è qualcos'altro oltre a questo o no in questa canzone? Non capisco. Claudio da Firenze, questo è il clou. Claudio, qual vai. E questo è il punto principale. Li Claudio. Avete visti dei nani lungo la riva del fiume, vabbè. Come voterà Richard Benson al referendum? Come no, vota? Ma come voteranno soprattutto questi cazzi di nani lungo la riva del fiume? Questo Claudio da Firenze, vai. Sì, ok. Allora, poi passateci anche Richard Benson che sbrocca su YouTube, che è fortissimo. Vai, vai, Claudio, dimmi. Ok, okay senta, okay. Volevo parlare del bimbo, come si chiama, quello di colore... Chi? Bello figo, chi? Bello figo, sì, sì. In pratica lì secondo me è pericoloso. Perché? Tra l'altro secondo me è anche secondo me pilotato e ma forse pilotato anche da qualcheduno. Ma pilotato per che cosa? Allora, te ti do del tu, scusa. Sì, sì, certo. Te dici che in pratica lui è sostenitore di Renzi, io penso che sia proprio il contrario. Cioè tu secondo dici me che è messo lì apposta per danneggiare è Renzi? È messo lì apposta, certo, ma sicuramente. Lui è lì per fare incazzare ancora di più le persone, cioè, soprattutto ora che fra pochino c'è il referendum e viene fatta questa propaganda. Tu dici che è una roba contro quelli del sì? Sì, è per invelenire ancora di più il clima, no? Ma tu dici perché fa incazzare? Non mi pare un complotto, francamente. Ma no, ma è uno così che fa i soldi su queste robe qua. Cioè, diciamo la verità, allora, perché sta andando in onda ieri su Rete 4, lo state mettendo voi oggi? Cioè, vabbè, ma lì tu dici che apposta l'hanno messo a Rete 4 perché dà l'immagine dell'immigrato, che in realtà non è immigrato perché è italiano, che prende per il culo gli italiani con tutte le cose che fanno i profughi quando arrivano, cioè cercano i wifi... E l'albergo gratis, 35 euro al giorno, eccetera. Messo lì apposta come simbolo del ben godi degli immigrati. Può essere, sì, amico mio, può è essere. Come una specie. fase di conferma, no? Qualcuno. Io ho capito che dici tu, ma non credo, francamente, non credo che ci sia dietro un complotto. Che poi possa essere controproducente, quello è sicuro, pure Parenzo lo dice. Sì, perché la gente, no, ma io voglio dire, la gente è incazzata, cioè ci sono. Vabbè, tanti, la gente io sarà incazzata. Sono, io ho l'accoglienza, cioè, benvenuto. Però tu dici, la gente è incazzata, poi addirittura arriva uno che fa l'elogio di tutte le cose per cui. Lo so, Andrea Bergamo, vai, Andrea. Dimmi. Mi spieghi cosa cazzo vuol dire andare a votare scheda bianca? Nulla, in un referendum nulla, che non ha quorum. Nulla, niente, allora, zero. Allora non vuol dire un cazzo. Non te ne stai a casa. Infatti, potrei rimanere anche a casa. Ho detto, potrei rimanere anche a casa. Altrimenti, scheda bianca è una roba così. Effettivamente, non conta nulla. Assolutamente, no, ma comunque risulta che hai votato. Niente. Sì, non conta niente, ho capito. No, non ma risulta nel numero di votanti, comunque, anche se non c'è il quorum. Andrea, non ho detto che ha un significato. Significa che non so che cosa votare. O rimango a casa o voto scheda bianca. Perché per me ci sono ragioni per il sì e ragioni per il no. Siccome non me ne frega niente né di mandare a casa Renzi, né che Renzi resti, sono indifferente a tutto ciò, non me ne frega assolutamente nulla. Non so francamente che cosa votare, cioè appunto, molto semplice la cosa. Come la maggioranza di tutti. Sì, sì, poi tu che voti? Io non voto perché è per le stesse ragioni. E allora che vuoi da me? Perché non cambio, io non lo dirò. Ma io non vado a perdere tempo alla scheda bianca, questa cosa, quando ho sentito scheda bianca... Ma sì, ma scheda bianca per dire che non vado a votare, è probabile che non ci vada nemmeno, cioè hai ragione tu, non serve assolutamente a nulla. È un modo per dire, è un mio modo per dimostrarmi, avete rotto i coglioni, mi ho sfracellato le palle. Io odio. Alle 9 andrò a votare. Ma odio non dico che come. Ci sia un paese bloccato da mesi su questa roba qua. Non lo sopporto. Vabbè. È una cosa per me insopportabile. Dunque, scheda bianca è per dire, ma avete rotto i coglioni con questa cosa. Da una, ci avete fatto due palle così per 6 mesi. E punto e basta. Fermo. Cruciani, per colpa tua, ha avuto gli incubi tutta la notte. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Cruciani, questo è l'ospedale di Mantova, l'ospedale dei comunisti. Sono venuto qui a 12:30, sono le 8:22 e non mi hanno ancora visitato. Io sarei potuto già morire di infarto 27 volte. Allora, questi comunisti di merda che fanno vomitare non mi fregano più. Cioè, capito? Mauro da Mantova ricoverato. No, aspetta, vedi però che qualcosa a Mantova funziona ancora. Cioè, in che senso, scusa? Vedi. Io che pensavo fosse. Vedi perché Mantova viene confermata, ha scartato Trento ed è la città più vivibile d'Italia. Perché ci sono degli ospedali che funzionano, che selezionano i malati. Ci sono degli ospedali che funzionano, vedi? Ottimo. Scusa, quel poveraccio di Mauro si è ricoverato per una specie di trombosi alla gamba, non so dove. Non l'hanno visitato, spero ancora. Beh sì, adesso credo che... No, io direi lì si tratta di dare la precedenza a tutti. Ad esempio, se arriva un migrante che si è fatto una piccolissima escoriazione, è evidente che deve passare avanti a Mauro da Mantova. È evidente, è stra-evidente. Perché credo che quell'ospedale sia governato da De Benedetti. Sia di De Benedetti l'ospedale di Mantova. Sai? Così dicono. Dai, perché? L'ospedale? Sai di chi è? Di De Benedetti? No, veramente è pubblico. C'è la mano di De Benedetti! Comunque ragazzi, non c'è solo il popolo della Zanzara, alcuni ascoltatori che insultano Prodi, come abbiamo sentito nei giorni scorsi. Per esempio anche il signor Forchielli. Signor Forchielli, grandissimo, il forchiellone nazionale numero uno. Lo so, ho capito, però uno dice no. È amico di Prodi, peraltro. Sì, ho letto il suo post. Ho sentito figlio cosa di una mignotta, dice. Figlio di una mignotta. Sì, non è stato gentilissimo. Diciamo. A Plutone mi ha fatto una pipa che cosa vuol dire? È un figlio della mignotta. No, Alberto. No, Alberto, dai. Mi ha fatto un pippone. Cioè, dice che ha fatto un pippone perché ha detto io voto, voterei, la riforma fa schifo, eccetera, eccetera, però voto sì. Effettivamente c'è un po' di contraddizione. Beh, anche Cacciari ha la stessa posizione. Federico da Milano, vai, Federico. Oh. Dimmi, dimmi. Ciao Crociani, ciao Parenzo. Vai, ciao, dimmi, caro. Allora, ieri sera ero con un mio amico che mi ha aperto un mondo. Praticamente mi ha spiegato che lui fa dipingere sua moglie, sì, la fa aerografare e si fa disegnare tigri, leoni, così. No, non ho capito, scusa, che cos'è che fa fare sulla moglie? Allora, si chiama body painting, mi ha detto. Mm. Ah, certo, sì. Famoso. Body painting, che cosa farebbe? Cioè, non ho capito. Togli nuda la moglie, lo conosco anch'io perfettamente, sì. Sì, perché lo pratichi, esatto. Non ho capito, lo pratichi? No, non lo pratico perché non, cioè, mi sembra il caso. La moglie o la compagna, quella che viene spogliata e poi? Nuda e totalmente poi nuda. Sì. E certo, poi si fa disegnare sulla pancia, sul corpo, così. Per esempio, ho fatto vedere una foto di una tigre con, diciamo, al posto della bocca, la figa della vabbè, colonna. Adesso qui nel dettaglio non occorre entrare nel dettaglio. No, però no, non occorre entrare nel dettaglio, se no, altrimenti non si capisce che cos'è questo body. Cioè, non ho capito quale sarebbe lo scopo di questa cosa, non ho capito, l'eccitazione. Allora, io volevo chiedere, uno, c'è qualcun altro in questo paese che fa sta roba qua? Due. Ma immagino di sì, c'è, non è che qualcun altro, c'è sicuramente. Quindi non è una cazzata. Due, devo convincere la mia ragazza, che è lievemente parenziana, a farlo. Come faccio? Cioè, che cos'è che vorresti fare concretamente? Dire che è parenziana. Vorrei farla. Vorrei che accettasse di farsi dipingere. Dove? Dove? Che cosa si dovrebbe far dipingere? No, tutta nuda. A me piacerebbe particolarmente il leone. Il leone dove? Al posto della figa? Ma sì, in generale, anche sul corpo più grande, diciamo. Cioè, lo scopo è poi scopare con una donna tutta dipinta. Esatto, esatto. Questo è lo scopo finale di questa minchiata. A me non provocherebbe proprio eccitazione zero. No, diciamo cosa, che questo signore ha brutalizzato una cosa che ha tradizioni antiche, perché invece il body painting, diciamo, risale a quando le modelle venivano, no, c'era il pittore, loro si distendevano sul divano nude, sì, e poi venivano ricoperte. Comunque state svilendo tutto, perché questa è poesia. No, ma è vero, ma comunque ci sono anche state delle rendendo filate. Questa cosa una porcata, cosa che invece non è, e quindi siete però i soliti maiali miserabili. Va bene, Armando dall'Aquila, vai Armando. Tutti quanti. Ciao Cruciani, io dimmi, chiamo solo per dire quattro paroline al tuttologo lì. Vai. Al tuttologo Parenzo. Vai, dimmi però, dille queste quattro paroline. Sì, perché lui è uno di quelli nati col fiore ficcato nel culo, no? Ma in che senso? Scusa, spiegami sta parola. Che vuol dire? Cosa vuol dire? È un detto aquilano. Quando uno nasce col fiore ficcato nel culo, vuol dire che nasce in una famiglia bene, con i soldi, e quindi non ha problemi nella vita, no? E allora? No, ma problemi le hanno tutti, non vuol dire. È uno di questi qua. Dunque? Di questi personaggi. Sì, ma anch'io sono nato in una famiglia benestante. Allora? Non c'entra niente, ma Parenzo proprio di quelli proprio stonati. Allora? Il signor Parenzo, voglio dire, siccome che quando all'epoca di Berlusconi, i giudici, la galera, adesso per quanto riguarda la Banca Etruria, com'è che non sbraida il nostro... Che c'entra adesso la Banca Etruria? Ma cosa c'entra lei adesso? Lei non ha seguito, lei non è... Armando, ti posso mandare serenamente a fare in culo? Ecco, bravo. Ti vorrei ti mando serenamente a fare in culo. Ma cosa c'entra adesso la Banca Etruria, oggi? Alle 19.42 oggi, spiegami, qual è il problema? Cioè, io non è che parlo di... Ho sempre detto che i giudici hanno fatto benissimo a indagare su Banca Etruria. Lei non è male informato, peraltro. No, Parenzo, con te, andate d'accordo con te, devi essere ebreo e comunista, perché se lei, no, lei è molto male informato, perché purtroppo è un idiota e quindi è male informato. Io ho sempre detto che i giudici hanno fatto benissimo a indagare sul babbo della Boschi e su Banca Etruria. Sì, fine, ma sempre detto. Ha visto che condanna grossa che gli hanno dato. No, vede che non sa, ci sono ancora dei processi in corso, invece lei purtroppo non sa. No, la Parenzo, soluzione sentire, che no, voglio sentire a te che ti scaldi per queste cose, no, come devono volta, andare fino in fondo. Le responsabilità devono ancora essere, deve vabbè, esserci ancora. Arrivederci, la Gora. Per responsabilità. State zitti tutti e due, Gora non da Novara. Non fa niente lei, nulla. Gora da Novara, vai. Mi sentite? Sì, dimmi. Come ti chiami tu, Gora? Io sono Gora da Novara. Gora, e di dove vieni? Di dove sei? Io sono senegalese, originario. Senegalese. Allora? Allora, tutto bene. Praticamente tutto io... bene cosa? Chiama e dice tutto bene. Tutto bene. Sei un senegalese che chiama da Novara. Per quale motivo? Per quale motivo chiami la Zanzara? Per parlare del mio amico Bello Figo. Per parlare del grande Bello Figo. Che vuol dire di Bello Figo? Allora, praticamente io faccio il musicista, ho sempre cantato, amore, pace, serenità, interazione. Te sta okay? puttanate, sì, poi? E non mi è mai filato nessuno. Fatti una domanda, amico mio, fatti una domanda. Fatti una domanda. Aspetta. Io conosco bene quello figo, conosco bene anche quel modo che tu hai insultato, però non lo conosci, il modo, quel senegalese che era lì ieri, presente in studio. Praticamente la prima volta che ho sentito Bella Figo mi sono incavolato, ho detto ma chi è sto cretino che fa? Tu sei invidioso di uno che viene invitato in televisione? No. E allora? Poi ho cambiato idea perché ho detto questo è un genio, è un genio. E allora? Nel senso, scusate un attimo, la Lega cosa va dicendo in giro? Che gli immigrati vengono, gli danno la casa, gli danno la bella macchina, gli danno il wifi, gli danno queste cose, giusto? Sì, beh è vero però. Lui? Non è vero. Beh lui sì, ha insomma, usato sì. Ha usato queste parole che pensano la buona parte del popolo italiano contro di loro. Ma scusate un attimo, ma perché prendersela con lui? Lui sta usando le cacchiate che dicono i populisti. Vabbè, ho capito, ma lui non crede a una parola di quello che dice questo bello figlio. No, non lo crede, perché prende. Senti Gora, ma tu sei senegalese da quanti anni stai in Italia? Io sono da 23 anni che sono in Italia. Da 23 anni, cioè ormai sei italiano praticamente. Sono italo-senegalese, quindi doppia nazionalità. Doppia nazionalità, sposato, cose... Sposato, con una donna italiana, una bambina bellissima, tutto qua. Ok. Cosa? Quanti anni hai? Io sono 37 anni, portami benissimo. E tua moglie? Mia moglie ne ha 34. 34, E come quindi? Mai ha trovato il senegalese? Scherzo. Ma capito il mio discorso? Scherzo. Cose più serie. Non ti chiamerò spada di fuoco perché ce n'è già un altro. Ce n'è già un altro che noi chiamiamo scusate, spada di fuoco. Ma tu sai quanti italiani pensano le cose che dice Bella Figo? Sai quanti sono? Beh, parecchi, sul web sono parecchi. Allora sono cavolato, visto che sono cavolato. Lui dice le stesse cavolate, però fa incazzare. Tu sei invidioso, perché fai il musicista. No, non sono invidioso, no, per niente. Anzi, ho detto, questo è un genio. Perché lui riesce a fare i soldi con questa roba, è un genio. Ciao. Un saluto da Boston a quel puzzone di Cruciani con le mutande sgommate. E a Parenzo, l'uomo più odiato d'Italia, che per me è un eroe. La Zanzara. Comunque ragazzi, non ci posso credere che mi qua... segnalano, non so se sia vero, quindi lo puoi verificare tu, visto che io sono a Madrid e non a Milano, che il Pirellone, il simbolo di Milano dove c'è il consiglio regionale eccetera, fa lo spot per il no, cioè, si sono accese le luci con il no. Ma sti cazzi, dai, tanto tutto. Ma come, se è vero, me l'hanno segnalato con una foto, me l'ha segnalato può l'ottimo essere, duplicato che è un ma non è che se sei a Madrid significa stare fuori dal mondo. Oggi stare a Madrid è come stare sotto casa mia, uguale. No, lo so, sono a Madrid, ma che cazzo vuol dire? Sono a basta Madrid, connettersi. Ho degli impegni istituzionali ma con quali impegni istituzionali? Hai la spa sotto casa, hai la spa sotto casa, no, sotto la stanza, no, sotto la stanza. No, sotto no, nel piano terra io sono. Allora ragazzi, pensate voi, l'Italia, no, con le pezze al culo. I comuni che non hanno i soldi, le regioni che sprecano un sacco di quattrini. Allora, a Salerno, città di Salerno, l'amministrazione comunale spende 9.100 euro e rotti per fare inaugurare l'albero di Natale a Manuela Arcuri. Per carità, lei fa benissimo, non ce l'ho affatto con Manuela Arcuri, ognuno fa i cazzi suoi e sfrutta la propria immagine come vuole. 9.000 euro, cittadini di Salerno, magari saranno pure contenti, non lo so, che la vostra amministrazione paga alla signorina Manuela Arcuri per l'inaugurazione dell'albero di Natale sulla piazza di Salerno. Tu dirai va bene, che vuol dire va bene? No, non me ne frega niente, c'è una cosa assurda, ma è assurda. Se gliene hanno dati giustificheranno perché li hanno dati. Ma li giustificheranno, non c'è in modo, giustificano facendo questa cosa qui, cioè, ma punto. Si tratta del pubblico o del privato intanto? Pubblico, comune di Salerno, pubblico. Stai scherzando? Esatto, siccome è il pubblico che lo ha fatto, alle prossime elezioni gli tireranno un bello scapaccione al sindaco perché ha buttato via 9.000 euro, 10.000 euro, quant'è? Molto semplice, esistono le urne per punire gli amministratori. Sì, ho capito, ma è una vergogna, cioè tu non puoi dare 9.000 euro per l'inaugurazione di un albero di Natale a un'attrice per ma venire. Ma io posso essere assolutamente d'accordo con te, ma il problema non è dell'attrice che li ha presi. È una specie di schiaffo alla miseria, dai. Ecco, piccolo là che parla, lo schiaffa la miseria. Ecco, sì, il povero, ma è, certo. Ecco il povero che parla. Ma no, ma perché no. Tu non l'avresti accettato e io non accetto. Ma cosa c'entra? Non me la sono presa con l'artista. Perché io ovviamente sono di un'altra parrocchia, ma non me la sono presa con chi ha incassato. Sto dicendo semplicemente che un'amministrazione comunale che dà 9.000 euro in questo caso a un'attrice per inaugurare l'albero di Natale, la gente dovrebbe andare con i forconi sotto il comune, a mio parere, chiaro? Comunque è vero, sì, le foto del Pirellone con la scritta no, sì, vabbè, ma... Non c'è limite al peggio, insomma. E sarà mica normale, però. Non che c'è limite al peggio. Ah, ecco, però, bravo, vabbè, ma chi se ne frega, sono tante. E tanto andrebbe denunziato per sperpero di denaro pubblico anche Maroni, perché non si può accendere il Pirellone così ad minchiam per fare ma propaganda. Vabbè. A me non interessa, io ho detto, io non anche dico Renzi, voto sì, anche no. Renzi ha una figura istituzionale, pure fa Renzi, propaganda per il sì. Infatti a Renzi hanno rotto i coglioni proprio per questo, e anche dicendo che altre figure istituzionali fanno propaganda per il no. Così come sbaglia Renzi, sbaglia anche Maroni. Si può dire sperpero della luce pubblica per scrivere no sul Pirellone? Si può dire? Scusa, quello ha speso una marea di soldi pubblici per fare campagna elettorale per il sì. Le lettere degli italiani, questo intanto, non può fare la scritta no sul Pirellone. L'ha spesi il Partito Democratico, se vuoi essere. Anche la presidenza del Consiglio. Concreto. Se vuoi essere sincero. È uguale, sempre soldi nostri. Partito Democratico. Ma che soldi nostri? Non soldi, allora fermi tutti. Sono soldi nostri del finanziamento pubblico. Che cazzo glieli dai i soldi al Partito Democratico? Ogni volta che c'è finanziamento pubblico incassano 4 euro, incassano. E dai. Sono ancora i rimasugli del finanziamento pubblico e per fortuna fra poco finirà. Poi devono cominciare a fare toc, toc, toc, toc, toc. Me lo ha confermato anche l'ottimo Caparini. Sì, anche a me ha mandato un messaggio. L'ottimo Caparini. Bravo, Caparini. Allora, è con noi il mitologico Alberico Lemme. Ancora. Professore! Buonasera a tutti. Come andiamo, maestro? Sempre meglio. Beh, praticamente ti sei autoproclamato genio, praticamente. No, è da tanto, eh. No, anzi, domani presenterò a Bari pure il mio primo spettacolo, porterò in scena uno spettacolo rivoluzionario. Qual è lo spettacolo il rivoluzionario? Il titolo è Io cambierò il mondo, e non è una battuta. Scusa, è volevi cambiare semplicemente le diete, eccetera. Adesso il mondo vuoi cambiare? Sì, ormai ce l'ho in pugno, ormai è fatta. Scusa, Lemme, perché non ti candidi direttamente alle elezioni? Cioè, guarda perché che sarebbe... vengo facilmente. No, è troppo facile. Dici, no, ma che è troppo facile. Dovresti cominciare a candidare seriamente, prendere in considerazione l'idea di candidarti. Tu dici, che cazzo me lo fa fare poi? Esatto, bravo. Cioè, guadagno già tanto facendo questa roba qua, no? Quant'è il tuo reddito, Lemme? Il mio reddito? Ah, l'ho detto anche ieri, lo dirò pubblicamente. Sì, dimmelo. Io fatturo 2 milioni di euro all'anno. 2 milioni, capito Parenzo? 2 milioni. Professor Lemme, 2 milioni. 2 milioni di euro all'anno, potresti comprarti con 2 milioni di euro all'anno qualche giacca un po' più presentabile, io credo. Guarda, quella giacca che ho portato ad Urso mi costa 800 euro al metro, e hai allora capito? Me la presti che devo fare una figura di merda, per cortesia? Sì, però mi dai 1000 euro se la vuoi in prestito. Cioè, se te l'hanno venduta per tutta quei soldi. Cioè, quanto costa? No, l'ho comprata io, non me l'hanno venduta, l'ho comprata io. Quanto costa allora la giacca? Sei un birla al cubo. Quanto costa la giacca che porti dalla D'Urso, la giacca che ti ho visto ieri a Nemo? Oscena. Quella... Allora, io compro a metri la stoffa, e poi il mio salto che me lo fa. Quindi quella giacca... Ma perché non eviti delle figure di merda e non mi telefoni? Ma se gli piacciono queste giacche... Mi dispiace per lui, perché uno che si mette una giacca così fa una figura di merda. Ma non è vero, lui pensa di non fare una figura di merda, scusami. Lo so, è vero, il buon gusto non si insegna nelle università. Scusa, lei, che stavi dicendo? Voglio vedere come va in giro tu... Vestito come un pinguino va in giro, no, con la giacca giacca blu, la giacca gessata grigia gessato e nera. Lo uso raramente perché si usa soltanto in alcuni momenti della giornata, come tu sai. Lemme, io non ho capito, ma tu, a parte questa cosa qua per cui spendi, per vestire quanto spendi? Un sacco di soldi, evidentemente. Spendo quello che occorre, no? Cioè, è quello che occorre, 800 euro al metro di giacca, una giacca quanto ti costa? Scusa, 800 al metro, ti costerà? Mi costerà 1500 euro, 2000 euro. Beh, va benissimo, 1500-2000 euro la giacca, bene, ottimo. Ma per carità, ognuno spende i soldi come vuole, assolutamente. Certo. Io voglio capire una cosa, dunque, perché non ti fanno andare in America a fare la tua dieta? Ma arriverò in America. Perché non riesci a sbarcare in America? Spiegami. Ma no, perché non ci sto ancora provando, ma arriverò anche in America. Sì? Fidatevi. Ma guarda, in America sì, è pieno di obesi, eh? È pieno, io risolverò l'obesità in America. Pure ma Trump è un po' sovrappeso, ho visto. Trump lo farò dimagrire, a giorni mi chiamerà anche lui. Ecco, ma perché... diventare famoso anche Trump. Perché, giro, scusami, perché non hai fatto... c'è un tuo amico Briatore, no? È amico di Trump. Potrebbe fare da intermediario, no? Con Trump. Sì, ma ci stiamo lavorando. Cioè, stai lavorando su Trump? Su Trump, sì, sì. Non, tra non molto mi chiamerà, entro alla Casa Bianca e lo farò diventare un figurino. Sì, certo. Quest'uomo, veramente, quest'uomo non ha limiti, caro Parenzo, non ha limiti. Io divento presidente della Spagna al posto di Rajoy. No, quest'uomo non ha limiti. Parenzo non diventerà mai nessuno. Quest'uomo non ha limiti. Prima o poi lo sai che ti arrestano, sì. Tu lo sai, sei consapevole, sì. Sì, sì. Ma se mi arresti, mi prego di portarmi limoni in carcere. Come ha fatto? Se mi arresto, portatemi i limoni, non le arance. No, le arance no, i limoni, sì, no. Perché le arance fanno ingrassare. Bravissimo. Ma scusa, io ne ho mangiata oggi una, l'ho strappato qui alla radio, c'era un'arancia vagante, alle 5 di pomeriggio, ho fatto male? Hai fatto malissimo, domani mattina circa mezzo chilo in più. Ma no, veramente stai dicendo? Giuro. Cioè io ho mangiato un'arancia alle 5 di pomeriggio, io penso di mangiare una cosa sanissima, ho preso un'arancia qui. Alle 5 di pomeriggio ho detto, cazzo, mangi una roba sana di pomeriggio. Ma non brucia i grassi. E invece che ho fatto? E invece produce sicuramente altri, per cui tu questa notte ingrasserai, domani se ti pesa avrai 300-400 grammi in più di ciccia. Ma mortacci tua, ma che sei matto? Ma veramente stai a dire? Lo vedi che hai un po' la pancetta, non lo vedi? No, ma sto cazzo, io non ci ho affatto la pancetta, che stai a dire? Cioè, tu che c'hai, se io ho la pancetta, tu che sei? Un ciccione di merda. Scusami, io non ho capito, Alberi, ma veramente stai dicendo che questa cosa qua di mangiare l'arancia il pomeriggio sì, mi fa sì. male? No, sai perché nessuno se ne accorge? Perché nessuno si pesa al mattino. Provate a pesare, dico anche agli radioascoltatori, provate a pesare tutte le mattine e vedete l'effetto. Le cazzate che avete fatto, le cazzate che avete fatto il giorno prima. Sì, sì. Fermo lì che c'è la pubblicità, poi torniamo e ti voglio chiedere un paio di cose molto interessanti. Lo sai che ha preso le guardie del corpo, Parenzo? Le guardie del corpo. Beh, stupendo, aspetta. La zanzara è libertà e la libertà è una droga. Non puoi più farne a me. La zanzara. Io vorrei sapere, uno, chi cacchio è Richard Benson? Due, perché quella orrenda musichetta I Nani, I Nani mi rimane in testa? Sono giorni che canto solo quella, mia moglie mi vuole cacciare di casa, mio figlio mi vuole ricoverare, è tutta colpa vostra. Allora ragazzi, abbiamo con noi al telefono una delle grandi scoperte della zanzara di questa stagione, anzi della stagione passata, devo dire, Alberico Lemme, l'uomo che si sente un genio, si proclama Alberico genio. È un nome d'arte. Ha un nome vero, Alberico Lemme, l'uomo che dice che cambierà il mondo, l'unico intelligente, uno dei pochi intelligenti, lui dice, sulla faccia della terra, vuole addirittura adesso sbarcare in America dove vuole risolvere un problema gravissimo, il problema dell'obesità, protagonista soprattutto di grandi battaglie televisive contro una serie di ciccione che la signora D'Urso mette lì apposta per farci... per farlo litigare. L'ultima volta vi siete quasi menati, ma è per questo che ti sei preso due guardie del corpo, Alberi? Sì, è per questo, perché io ho diviso realmente l'Italia, c'è metà Italia che mi ama e metà che mi odia. E allora? Mi arrivano i messaggi, poi se ti incontro per strada ti meno, pezzo, eccetera, eccetera. E allora? Ma sai quante ne arrivano a me, Alberico? Sì, ma io per evitare qualsiasi conflitto, allora io... porta la mia guardia del corpo, così sono protetto per non mettermi a litigare con le persone, no? Cioè, non lo credo, ma è per questo veramente che hai preso la guardia del corpo? Sì, non sto scherzando. Cioè, due guardie del corpo? Quanto cazzo ti costano? Esatto, quanti soldi ti costano? Adesso volete sapere tu, ve l'ho detto tu. Tutto devi sapere, vogliamo sapere. Ma certo, tutto trasparente, hai fatto della trasparenza tutta la tua battaglia, adesso non ci vuoi dire quanto costano le guardie del corpo? Sì, dipende dalle ore, no? Dipende. Ma che ne so, al mese quanto costeranno? No, tutto? Al mese, quando faccio le uscite, mica al mese, no? Le paghi a giornata, quanto? 500 euro a botta? A ore, certo, 500 euro, 600 euro. Questo, a botta, cioè comunque, insomma, ti comporti come una vera rockstar con le guardie del corpo dietro? No, sono una vera rockstar, non è che mi comporto, io non sono un personaggio. Io non faccio il personaggio, io sono un personaggio, e questa è la differenza. Però, scusa, io non faccio il genio, io sono un genio. D'accordo, va bene, però tipo, quanto prenderai? Fra poco non andrai a presentare il libro, fra poco ti farai pagare, se già non lo fai, per andare da qualche parte a dare dei consigli, al di là delle diete, no? Dovresti essere pagato, ti dovresti fare pagare ad ospitata, o no? No, io faccio tutto gratuitamente, anche lo spettacolo che faccio domani sera a Bari, l'ingresso è gratuito, pensate un po', hanno già prenotato 300 persone. Ma non va bene, le grandi rockstar si fanno pagare per qualsiasi cosa, cioè dovessi farti pagare per qualsiasi cosa. Ho capito, ma guadagna già 2 milioni di euro, mica è un avido. No, è fatturato, non è un guadagno, io fatturo 2 milioni, non è un guadagno. Sì, ma scusami, quanto te resta in tasca, Alberi? Poco o niente, con almeno tutte le tasse che paghiamo posso assicurare che resta poco o niente. Poco o niente adesso, poco o niente. Sarà più di 1 milione e basta. No, dai. Certo, sì, ma le pagate o no le tasse? Cioè, io le pago netto le tasse. Netto al mese, quanto guadagni? Cioè, quanto c'è? 800.000, 1 milione gliene no, netto, al mese, ci avrai 20.000, 20.000 netti al mese di guadagni. Di più? Ma va, neanche. Neanche, 10.000 netti. Quanto ti resta di tutto questo? Ma rimane veramente poco, adesso non sto scherzando. Ma che ne so, però... 6, 7 mila, 10, 15? Ma come fanno a essere 6, 7 mila euro con 2 milioni di euro l'anno, dai? Ma quello è quello che fattura la sua azienda. Esatto. O no, o sbaglio? No, quello è fatturato. Quanto ti resta? Quanto ti resta alla fine, Lemma? Ma rimane circa 100.000 euro, non di più. 100.000 netti, diciamo. Ma figurati, dai. Tutte le tasse, tutte, cioè rimane quello. Ma quello per lui sto dicendo, per lui, capito? Senti, ma è vero che tu vuoi... E nonostante questo ti compri quelle giacche immonde spendendo quella cifra? Nonostante quello, ma vedi che ne stai parlando, hai visto che ne stai parlando? Scusami, Lemma, io non ho capito una cosa, ma tu, tu alla fine, una cosa fondamentale, è vero che vuoi risolvere il problema del cancro? Sì. Ma come, ho risolto, questo lo voglio dire pubblicamente, ho risolto il problema del diabete 2. No, diabete, non hai risolto il problema. Si guarisce dal diabete 2, si guarisce, ve lo posso assicurare, no, con l'uso del cibo. Con che? Con la tua dieta si guarisce dal diabete? Sì, con la biochimica alimentare, certo. No, ma non tu non puoi dire, ma non puoi dire che si guarisce dal diabete con la tua... Ma perché? Ecco, tutti mi dicono che io non posso dire, ma perché non si può più dire la verità in Italia? Ma non è una cosa pazzesca. Perché non possiamo dire la verità? Ma non si guarisce con la tua dieta dal diabete, ma dai! Ma sì, vi dico di sì, si ma non puoi dire, c'è un sacco di gente malata di diabete, tu gli stai dicendo che si guarisce dal diabete attraverso... Certo, ma ho le prove, ma è una dieta basata sulle ma non è una dieta, è l'uso del cibo come farmaco. Io uso il cibo come farmaco, e questa è la nuova scoperta che ho fatto. Ho azzerato 100 anni di dietologia medica, li ho azzerati, però, scusa, non conta più nulla. E si guarisce più anche dall'ipertensione. Cioè, ti dovrebbero dare il Nobel, guarisce completamente. E siccome si guarisce anche dalla bulimia. Ecco un altro grave patologia che soffrono, cioè, le donne. Cioè tu praticamente ipertensione, diabete, bulimia. Si guarisce con l'uso del cibo. Cioè con l'uso del cibo, quello che dici. Me ne assumo tutte le responsabilità. Quello che dici tu, praticamente, non l'uso del cibo. Certo. L'uso del cibo come dice il genio. Come è dice... ovvio. Allora, è ovvio, sì, d'accordo. Allora, ti dovrebbero dare noi il Nobel, ti dovrebbero ma dare il Super Nobel, o no? Bravo, il Super Nobel. Vabbè, ma ho capito, Alberi, però adesso, voglio dire, non ci puoi credere, ma tu ci credi sul serio? Non ci crede, è una realtà. Ma fidatevi. Questo se non si può più scherzare. E il cancro? E il cancro? E il cancro, insomma, al 70% per capire come funziona, come mai la cellula diventa cancerogena. Allora, questo signore che sta parlando non è un medico, lo dico per chi ci ascolta. Ancora, e meno male che non sono un medico, sono un farmacista, perché ne capisco molto di più di biochimica. Quindi ascoltatemi. Non dica cazzate su come si cura il cancro, perché lei... Le cazzate lo dico tutti i giorni in radio. Non abbiamo bisogno di stregoni su un tema come questo. Ma che stregoni? Sono 26 anni che studio la biochimica. Lei giovanotto. Lei ancora questa storia sì, e ne sono orgoglioso, sono un farmacista e sono un biochimico. Non dia messaggi pericolosi e sbagliati. Ma che siete voi che date messaggi pericolosi dicendo che non si può? Io sono messaggi di speranza, di realtà. Ma scusa, hai detto si guarisce dal diabete 2, Lemme, si guarisce dall'ipertensione con l'uso del cibo, ma hai detto, si guarisce dalla bulimia. Hai detto che al 70% hai risolto il problema del cancro. Sì, lo sto studiando, sono arrivato a capire. Ma non puoi dire che... ma come non posso? Che non ma posso, è anni perché... che sono decenni che la gente ascoltate, il sono genio tutti dei cazzoni, ecco, tutti noi dei arriviamo ogni 100 anni, arriva il genio sulla terra e vi insegna alcune cosette, io ve lo sto insegnando piano. Vabbè, piano, ma questo so è un modo tuo per fare pubblicità, non puoi credere per davvero che stai risolvendo il problema del cancro, dai. Ma non posso credere, io sto mettendo in piedi un laboratorio di alta tecnologia, sì, e vi farò vedere che fra qualche anno io avrò risolto questo problema. Tu finirai in galera, te lo dico, io sono contento cioè, ma perché mi volete arrestare se io faccio del bene? Comunque secondo me se ti danno il Nobel non lo vai a ritirare, fai come... no, non lo vado a ritirare sicuro, perché non lo merito che io vada a ritirare il Nobel. Pure, fai come Dylan. Ma dai, su, ragazzi. Gli artisti sono così, i geni sono così. Dai, state bravi, ragazzi, su. Non sono mica uno qualsiasi. Ma che vuol dire non sei uno qualsiasi? Sei un farmacista di Desio, cioè un farmacista. No, di sono andato in Abruzzo, ad Archicieti, un paese della Comunità Abruzzese. Sei un farmacista di Desio che è bravissimo a comunicare, fa dimagrire un po' di gente, altra gente è incazzata. No, ho fatto dimagrire 14.000 persone. Senti, a proposito, Briatore ha detto che l'hai fatto dimagrire, ma poi ci hai marciato sopra come un pazzo, eh. Dacci qualche altra novità. Chi è che si è rivolto a te di grandi star di recente, da quando sei diventato famoso? No, adesso faccio pubblicità. Prima di tutto ho fatto diventare famoso io Briatore, non il contrario. Vabbè, ma non dire cazzate, Briatore era già, ma Briatore era già famoso prima di te, dai, su. E adesso farò diventare famoso Mattioli Maurizio, il mio collega comico. Chi è? Maurizio Mattioli? Adesso Maurizio Mattioli, ha perso 10 kg, è felice, intervistato perché è felice. Lui sta risolvendo il problema del diabete, intervistatelo. Poi? Ha perso 10 kg in 16 giorni. Maurizio Mattioli, poi chi altro? Poi chi altro? Questo lui viene, sta venendo a te. Nomi, voglio i nomi, voglio i nomi. Un po' la volta. Quando mi chiede la prossima ti vedrò altri nomi. Sì, vabbè, ma che aspetta che c'è uno che si è incazzato con te, Luca da Grosseto, senti Luca. Fammi sentire Luca, sentire. Luca. Oh. Pronto? Dimmi Luca, pronto. Dimmi. Sì, salve, io sono un nutrizionista. Allora? No, c'è da dire un sacco di cose quando il professor Lemme, tanto per cominciare, non può parlare di nutrizione perché ha lavorato in farmacia e sta facendo abuso di professione. Non è vero niente, sono stato assolto dal comune. Assolto di che cosa? Ma lei parla di una cosa importante, dicendo delle fesserie clamorose. Lei dice che risolve i problemi di diabete, di tipo 2. Sì, va fermo. Quello che dice. Ma la invito domani, venga a Bari domani, la voglio vedere, le spiego tutto. Scusi, io faccio sperimentazione e faccio delle cose serie, non delle buffonate che sta raccontando lei. Lei deve, tanto per cominciare, in un paese normale, una persona come lei che va in radio e dice di fare abuso di professione non dovrebbe essere a parlare sono in radio. Sono stato assolto. Ma a me mi interessa, ma assolto da che cosa? Lei sta dicendo a tutti dall'abuso italiani, di professione medica, sono stato assolto, io posso fare il consulente alimentare. Luca, si legga il mio libro, La rivoluzione dimagrante, imparerà tantissime cose. Edito Montatori, La rivoluzione dimagrante. Fermi lì. Luca, sei in viva voce? Oh. Io sono con il telefono. Con l'auricolare? No, senza auricolare. Col viva voce? No, avevo la radio accesa. Dai, amico mio, su, mettiti bene, dai, se no non si capisce. Sì, parliamo di cose più serie, che questo signore qua sta dicendo delle cose gravissime. Ma ascolti, mi faccia parlare. Lei sta dicendo che risolve un problema gravissimo, che è quello del diabete tipo 2. Adesso che vuole risolvere anche il cancro, ci dica come fa e ci dica soprattutto... No, ma il cancro, Luca, non ti sentiamo, non sentiamo un cazzo. Allora, il cancro, non puoi dire che risolvi il cancro, Alberi, dai, su. Lo sto studiando. Ma che studi il cancro? Che studi il cancro? Ma scusa, ma è un paese normale come te, perché io non posso dire la verità? Ma la verità perché di che cosa? Sempre le fesserie? Non può dire per quale motivo del cancro. Ma perché non posso? Sì, io sto studiando, sono un ricercatore, sono ma un esploratore. Ma che farebbe sto Maurizio Mattioli? Spiegami, Maurizio Mattioli, che è il comico, che è il coso? Che è sì. Maurizio Mattioli, è l'attore comico, il mio collega, attore comico, mio collega. Come collega? Tu sei il farmacista? Ormai faccio l'attore, ormai. No, fai il comico, no, appunto. Sono normale. Allora, Maurizio Mattioli che farebbe? Allora, ha perso 10 kg e mezzo in 17 giorni e sta risolvendo il problema del diabete 2. Grazie a te. Grazie a me, sì, lo sto seguendo io dal punto di vista alimentare, io sono il suo consulente alimentare. Ma veramente? Lo sto, chiamatelo. Ma dai, su, vabbè, ciao amico mio, ciao. Crucia, sinalo! La Zanzara. Appena arrivati in Italia, abbiamo casa, macchine, fighe. Yeah, io non faccio praio, non faccio praio, io non faccio praio, non faccio praio, yeah, io non faccio praio. Non faccio praio, non faccio praio, non faccio praio. È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia. Quindi noi vogliamo wifi, anche stipendio. Dei soldi per poterli spendere come cazzo vogliamo, diciamo. Venire in Italia, quindi io... Fammi capire, il senegalese viene come clandestino in Italia. Noi coglioni gli diamo la cittadinanza italiana e questo canta io non voglio fa operaio, io non voglio fa operaio, ma va a morire ammazzato africano de merda. Io Cruciani, io gente come Paul lo metterei nell'olio bruciato e viva Benito, ammazzate Parenzo. Bello Figo è il numero uno, è andato lì e ha preso per il culo tutti, e che non se ne sia accorto nessuno fa capire il vuoto di cervello che c'è in quel programma lì. Bello Figo, top. Io dormo in albergo. Crucià, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. La zanzara. Andrea da Roma, vai Andrea. Ciao Giuseppe. Dimmi Andrea. Ti volevo raccontare un po' di mitologia intorno al mondo di Richard Benson, perché sono un suo fan da ormai sono 15 anni, sono stato a diversi concerti, veramente dei posti orrendi. Non so se hai mai partecipato. Bah no, sinceramente no. E sono immaginati un localaccio il più sudicio che puoi immaginarti, pieno di metallari sudati. Sì. Con lui, con la sua band che suona malissimo, ovviamente. Sì. E la gente gli tira addosso di tutto. Certo. Volano. Ma questo lo sappiamo, sì. Gli tirano addosso di tutto, sì, lo sapevamo. Sì, sì, ma io ho visto volargli addosso una testa di un maiale. Della porchetta. La testa di un maiale. Sì. Vabbè, il classico pollo morto da sacrificare a Satana. Oppure il massimo l'hanno raggiunto quando gli hanno svuotato in testa da un mezzanino una latta da 5 litri di olio per motore due tempi. Ma per questo gli hanno rotti i denti allora? No, ma ragazzi, gli arrivava di tutto. Ma uno che canta i nani. Ma ragazzi, ma quello là è un format. A un certo punto si sono inventati un format. Ma il format è, basta! Ma è un format. Mettetemi i nani, non ce la faccio, ragazzi. I nani, tu la conosci sta canzone, i nani, Andrea? Ma assolutamente, tra l'altro prodotta da Federico Zampaglione, mica cazzi, eh? Sì, esatto. Fammi sentire, non riesco a non sentirla, vi prego, non riesco a non sentirla. Li avete visti? Mamma mia. Allora Andrea, che vuoi aggiungere all'epopea di Benson che abbiamo? Che devi recuperare un paio di pezzi che ci sono su YouTube clamorosi. Quello del suo incontro, non so se l'hai già mandato, con Marilyn Manson. Sì, no, non l'abbiamo mandato, ma insomma manderemo. Poi? Poi quello quando sacrifica il pollo a Satana. Sacrifica il pollo a Satana. Lui voleva un capretto da immolare al demonio, no? Allora gli lanciano sto pollo nella vaschetta di plastica. Lui si incazza, poi prende su sto pollo e dice: sacrifichiamo questo pollo a Satana! È un momento suo top proprio. No, è un momento da disturbato, come tanti ne ha nella sua vita. Ciao Andrea, disturbato. Ciao. Andiamo a Palermo, Nino, vai! Oh, finalmente! Tu perderai la stolta battaglia contro il popolo italiano. Chi? Oh, Parenzo! Tu quello che vuoi buttare sindaco, vuole diventare sindaco. Senti qua. Dimmi, Nino, ma tu chi sei? Quello dei cani, sì. Bravissimo! Avevamo la scommessa, ti ricordi che tu dicevi che avevo tante denunce e cose varie? Io ogni giorno sono al Teatro Massimo, proprio in piazza, con i cagnolini. Sì. E ne ho dati 2336. Fino ad ora ancora sto aspettando qualcuno che presenta una denuncia. Una sola denuncia, una fotocopia, una qualunque denuncia. Vabbè, ma chi se ne frega adesso? Non è che ci puoi aggiornare sulla tua situazione giudiziaria. Sì, che cazzo ce ne... È importantissimo. Vabbè, ma a noi che cazzo ce ne frega? Scusa. Non è vero che non te ne frega, Cruci, perché tu sei un giornalista. Ma non me ne frega niente di quello che dice della gente che ti denuncia sui cani, scusami, no, ti posso difendere? Denuncia. Sì, vabbè, ma allora tu raccogli i cuccioli a Palermo e li dai in adozione. Gli animalisti ce l'hanno con te. Gli animalisti ce l'hanno con te. Perché non riescono a fare quello che faccio io. Vabbè. Ma ti voglio dire un'altra cosa, non so se tu ci credi. Perché mi hai chiamato? Interlazza, sì, te lo devo dire questo, dove sto io con i cani. Ho visto un UFO. Ci credi? Hai visto? Chi hai visto? Un UFO. Un UFO. Un UFO. Ma io come, ragazzi, non ne posso più. Un UFO, quando l'hai visto sto UFO? Ma allora, due mesi fa, stavo parlando con il mio vicino di casa, mi giro perché io sto in un terrazzo, metà coperto e metà no, mi alzo gli occhi e vedo una cosa rotonda, celeste, grande, senza far rumore, da una punta all'altra. Ma Benino, tu già sì, qualche non è che ha comprato la roba stavolta, non l'ha comprata. Non immaginava io, ma io ero sicuro che doveva dire così. Di cosa ti fai, Nino? Beh, di cosa evidente. Ti fai? Dai, ma io uso qualcosa, ma non c'entra niente. Cosa usi? Non è importante, la cocaina, la coca. Ma che c'è? Se lo sanno, che lo devono sapere tutti, scusa. Ma di, certo, ma uno chiama qua, Nino, ti fai ogni tanto qualche botta, che ti fai? Vabbè, hai qualche cosa, sì, bravo. No, ma qualche botta di coca? Sì. Ma quanto? No, poco, che è una cosa piccola. Ma cosa piccola che vuol dire? Non è che uno sia così cocainomane a... Cioè, non sei cocainomane, un po' sì. No. Aspetta, che non sento poco, avvicinati. A questo punto no, dico, Cruci, no. A questo punto no. E quante botte te fai a settimana? Due. Beh, due botte a settimana, amico mio. Dice già. Botte sì, ce l'ho due pippe, due tiri là. Due tiri, si dà dalle parti, due tiri. Ma non c'entra niente questo, ti giuro che lo tanto. No, ma è interessante. No, poi c'entra invece. È interessante, sai? Perché... Arrivo ti do su me i canne. Ti giuro che ho visto un UFO, minchia, ma perché non ci dovete credere? Dai, ragazzi, hai visto un UFO d'accordo. Quando ti sei fatto di cocaina, dai. No, Gioia, ma ti... Minchia, Luciano, te lo giuro, sopra, che devo fare? Ma non lo so, ma non è un UFO, amico mio. È, no, non era quello che te comandano, come si chiamano, quelli che mettono qua per fare i matrimoni, quelle cose. Senti, no, ma noi siamo interessati, perché io sono per la legalizzazione di tutto, no? Al di là dell'UFO, che secondo me non esiste, avrei visto qualche altro. Al di là dell'UFO, che uno ci vede o meno. Sì, tu che ci dicono... quelli che... No, quelli che io, sono, volare... io sono a favore della legalizzazione della droga, come sai. Sì, ma anche però io, Cristiani, sono... perché così, guarda, arricchiscono, sono i mafiosi. Sono interessato al mercato. Tu quanto, cioè, capito, quando ti fai una botta, quanto paghi? L'altro giorno c'è 15 euro. Quanto? 15. Ma te danno una robaccia, 15. Io non no, faccio un no, cazzo. No, buona, farina, buona, ti danno. Farina, buona, gioco, è buona. Buona, 15 buona. Euro. 15 allora, euro. Quando vieni qua, scendi a Palermo, che so che scendi spesso. Ma io non vengo mai a Palermo e soprattutto non mi drogo, amico mio. Cioè, 15, ma 15 euro che a botta? Sì, è un sacchettino piccolo con un po' di cocaina di dentro. Poco, 15 euro, ma 15 euro ti danno la merda quella vera. Ma cioè, dite, no, non è così, perché loro hanno il guadagno nella massa. Sì. Se c'è la merda non ci va nessuno. Ma vabbè, ciao, amico mio, ciao. E ciao, poi amico. Guarda qua, dove vai trovi la qualunque, purtroppo. Senti, voglio fare una grande inchiesta sugli spacciatori, poi mi dai un numero di telefono? Se, di uno spacciatore? Esatto. Allora, te lo faccio, mi informo e te lo faccio sapere. No, però non è che devi informare lui, devi informare... certo, no, che ti ho il numero senza dire niente a lui, ma farà ammazzare. No, vabbè, mi devi dare il numero di telefono, io poi devo... Sì, oppure, vero, sì, anche informare. Io lo dico, guarda, ti voglio intervistare. Un grande spacciatore, uno che spaccia la cocaina. Va bene. Capito? Uno grosso, però. Facciamo di Nino il grande inviato della Zanzara a Palermo, bellissimo. Ah, questa bella fosse, bellissima. Bella, Nino. Senti che bella risata la cocaina. In mezzo agli spacciatori, a tutto. Pareggio, sei un gran coglione. Ma senti, te lo dico che bella, hai una bella risata proprio davvero cocainomane. Io così ho la voce rauca. Ma non c'è no, non è rauca, è la risata del cocainomane la tua. Sì, no, io anche perché Nino, il problema sono è vero, diavolo. Che quando uno dice che si fa due botte a settimana, in realtà pubblicamente se ne fa almeno cinque. Sicuro. Bravo, minimo, bravo, minimo. Bravo. Dunque tu sei fatto di coca, ma va bene. Cioè, ma non ti no, sto... ora, ma chi c'entra? Sono tranquillo io. No, ora no, però fra un'ora appena finisce stasera. Ma ti al fai... giorno, cosa minchia, vedi che curiosità. Ma una botta al giorno te la fai, sicuro. Comunque mi devi fare il grande inviato. Nella droga di Palermo, devo fare un video. No, che video? Devi fare il grande inviato per farci conoscere il mercato della cioga a Palermo. Va bene? Cioga a Palermo, invece dai cani siamo andati fino alla cioga. Ma che ci frega dei cani a noi? Ciao, ciao, Nino. Ciao, ciao, ciao, ciao. Daniele da Roma, vai Daniele, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Ciao. Senti, io ho 32 anni. Sì. Volevo dire una cosa a quella specie di medico, quel farmacista del cazzo, lì, l'Emme. Sì, l'Emme, sì. Farmacista del cazzo, quello è un genio, ma che sei matto? Farmacista del cazzo. Allora, io lunedì sì. vado a fare il terzo di ciclo di chemioterapia. Sì. perché ho una leucemia molto avanzata. Ma questo non è bello, eh? E sentire questo figlio di puttana, bravo, bravo, che, esatto, che dice queste cose qui, che, esatto, lui ha scoperto il 70% delle cose. È vergognoso. Quando, esatto, io ho 32 anni. Vabbè, amico mio, però quello sostiene, è vero che è un po' pesante, sostiene di volere fare il ricercatore sul cancro. È una puttanata, ma gliel'ho detto. Allora io dico al signor Lemme, lunedì, sì, mattina, se non ha da fare, se non ha altri impegni, esatto, venisse con me a fare la chemio, la facesse anche lui. Ma non penso che sia contrario alla chemio. Ma lui dice stronzate. Sì, ma non puoi illudere la gente e dire minchia. Perché un farmacista che dice queste stronzate, sì, questa è una stronzata. Cioè che sta indagando su come si possono eliminare le cellule tumorali. È una specie di Vanna Marchi. No, lui è bravissimo, una specie di Vanna Marchi. Perché poi guarda, io però, chi è malato, questa persona che sta parlando, questo ascoltatore è anche intelligente, ha gli strumenti, sì, per combattere, per capire, ma chi è malato si appella a qualunque cosa pur di, esatto, non pensare alla propria malattia, e quindi, esatto, quello è un maiale. Dio le faccia, sì, però sì, è maiale, è un maiale, sai perché? Perché a me hanno detto che la mia unica speranza è un trapianto di midollo osseo. E vabbè, ma quello mica è contrario al fatto che tu fai le tue cure. Quello, no, ha detto, io sto facendo, sì, una ricerca. 70%... Sì, è arrivato, sì, al 70% del... L'EM dall'Abruzzo, dalle montagne, è arrivato a curare il cancro al 70%. Ma stiamo scherzando? Daniele, ti abbraccio, ciao. Alessandro, Bergamo, vai. Ecco, Cruciani, finalmente. Sì, dimmi, che vuoi? Allora, noi siamo, onestamente, lo dico a nome di tutti, siamo un po' stufi di sentire... Ma siamo chi rappresenti? Dei poveri. Chi rappresenti? Chi rappresenti? Io rappresento la gente veramente che è stufa di questa cosa. Tu rappresenti te stesso e basta. Alessandro da Bergamo. Me stesso, che comunque vale più di una capra come te. E allora? Cosa vuoi da me? No, siamo stanchi di questa... Adesso vedi, mi stai mettendo sul tuo stesso livello, io non ho più voglia di queste cose. Non hai più voglia? Chi se ne frega? Ma sai che non ci sono più in televisione, alla radio... Ma sai che ce ne frega a noi? A noi che cosa ce ne frega di quello che vuoi dire? Ma appunto, ma vedi, ma questo atteggiamento cosa vuol dire? Allora, bello figo culo Mussolini, si è stanchi, ma le cose intelligenti... Ma siamo stanchi di che? Di cosa sei stanco? Di te, tu sei stanco, ma tu sei stanco in testa. Ma vedi questo atteggiamento, la gente è stanca. Dopo che il referendum non sa cosa votare, uno perché siamo pieni di spazzatura, come la tua trasmissione, altro che la zanzara. Vabbè, lo scarafaggio stercolario. Vai a fare un bel riposino, vai a fare una camomilla. Ma vedi che sai che un massaggino in testa, una serata tranquilla, passi un weekend, le cose intelligenti. Le cose intelligenti. È arrivato il genio. È arrivato il genio. Il momento di oggi. Dici qualcosa di intelligente, parla un po' della situazione in Italia, del referendum. Il referendum. Non è che puoi sempre sparare camomilla, a casa, anzi già sei a casa, muto. Siete veramente pietosi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Allora ragazzi, ve l'avevamo detto all'inizio di questa settimana, c'è un parroco che si chiama Don Pierino Sacella, sacerdote cappellano degli Alpini, bergamasco di Sarnico. Ancora attivo a Maranello, Modena o da quelle parti lì. Ha 28 doppiette in canonica e va a caccia quasi ogni giorno. Qualcuno vorrebbe che fosse scomunicato. Scomunicato, ma che ti credo? Scomunicato. Te è uno che spara, dai. Ma va, chiamiamo subito Don Pierino Sacella. Don Pierino? Sì. Buonasera, qui Radio 24, Giuseppe Cruciani, come sta? Cruciani. Cruciani Radio 24. Cosa è successo? Insieme al professor Parenzo. Conosce il professor Parenzo? Eccoci. Conosce? Parenzo no. Oh, come Parenzo non lo conosce? Ma è gravissima questa cosa, Don Pierì. No, è lui che deve conoscere me. Beh, io francamente di personaggi e personaggetti ne conosco tanti, quindi Allora, Don Pierino, no, ti sto chiamando, sì. Don Pierino, ti sto chiamando perché ho letto con grandissimo interesse quello che hai detto in un giornale, sintesi. No? Come? In sintesi. In sintesi che vuol dire? Sì, sai cos'è la sintesi? Ma come ti permetti? Io ho letto in sintesi quello che ho rilasciato io, perché ce ne sarebbe da dire, no? Beh, a voglia ce ne sarebbe da dire. Scusa, innanzitutto partiamo da una cosa. Hai 28 doppiette, 28 fucili in canonica, giusto? Funzionanti. Funzionanti tutti? Sì. Beh, stupendo. Ma tu sei stato, sei anche cappellano militare, parroco militare? Vero, o vero. Adesso che fai in caserma? Niente? No, sono in congedo. Si congedano anche gli ufficiali, sai. Ah, sei in congedo. Bene. Quanto tempo passi a cacciare? A quanto necessario. Cioè, quanto ci vai? La stagione te la fai tutta? No, sai. I giorni di rispetto, martedì, venerdì, quindi c'è il riposo. Domenica è impossibile, sabato anche. Sì. I ritagli mattutini sono il resto della settimana. Mm. E in media, all'anno, quante bestie fai fuori? Ci danno dei capi consentiti, per cui quest'anno c'è stato un capriolo, ci saranno, dovrebbero esserci nel nuovo anno due caprioli. E il cervo, programmati dalla provincia. Come sono da cucinare il capriolo e il cervo? Io devi parlare col cuoco. No, ma per te sono buoni? Cioè, roba buona? Sì, buono. Buono. Il solito che va al di là della solita pisella e bollengo, eccetera. No, ma io dico, ma un uomo che è, come dire, quello che dovrebbe rappresentare... Un uomo di chiesa, dici tu, no? Un uomo di chiesa? Ma poi... Ma quando state parlando lì adesso? No, è Davide che parla. Ma come ti sta parlando? È Parenzo. Parenzo che dice, un uomo di chiesa non dovrebbe uccidere. Però questa qua è una stupidaggine, giusto, Don Pierì? Chi l'ha detto? Ha scritto da qualche parte. No, ma infatti io... Ma scusi, San Francesco parlava con gli animali e lei gli spara. Quando non ascoltano le mie prediche, sì. E come fanno ad ascoltare le sue prediche? Come fanno ad ascoltare le prediche? Quando parlo. Quando io predico, scappano, non ascoltano. Io, visto che non lo faccio con i fedeli, lo faccio con gli animali. Sparo. Se no lei sparerebbe anche i fedeli. Certo, come no? Io credo che lei abbia un tasso alcolico elevato. Mi ferma un comandamento. Qual è il comandamento? Ah sì, quello di non uccidere. E da questo comandamento mi sembra che le bestie siano escluse. A me pare di sì. Si parla dell'uomo, non dell'animale. Bravo, anche bravo. Perché se tu usi il sistema pasquale che gli ebrei vuole e che gli ebrei praticano, c'è da inorridire. A me fa inorridire. Sai che ha detto? Quando sgozzano l'agnello pasquale. Ma cosa dici? Se tu segui quel rito lì, è ebreo. Veramente da essere sconcertati. A me piace dare il colpo secco, l'animale muore, non se ne parla. Ma lei sta ma lei non sa niente. No, ma ha ragione. Meglio il colpo secco. Ascolta, dello sgozzamento. Ma pappagallo che è lì vicino, dove l'hai trovato? Quello là. Ma cosa dice lei che non sa nulla? Lo zoo che sta bene lì allo zoo, quello lì, sembra di scimpanzé. Senta, Don Pierino, che sembra uscito da un fumetto, da un cartone animato. Mamma mia, che arroganza sto prete, oh! Che personaggio! Ti ha veramente trattato come una bestia, oh! Speriamo che non mi spari come spara le bestie, dai, quindi. Richiamiamo, dai. Don Pierino, mi deve scusare per quello che è successo. Sono Cruciani, salve. Cruciani? Cruciani dalla radio. Ah, ma scusa, ma non ho capito, ma un po' di educazione, ma chi hai tirato lì? No, ma ho capito, ma non è successo nulla. Un po' di sana critica, lei dovrebbe accettarla. Cioè una... Sì, ma scusa, c'è di là uno che parla, sono anche chi è? No, si chiama Parenzo. Intanto non è uno. Si chiama Parenzo. Non fatemi ridere. No, però... Ma come si sente? Ragazzi, dai, ma questo non è un prete, questo è un matto. Un arrogante. Ma questo io l'ho esaltato come numero uno, assomiglia pure a Sean Connery. Vabbè, dai, Lucia da Roma, vai, Lucia. Pronto, ciao. Dimmi, Lucia. Volevo dire solo una cosa, che cioè, Parenzo, ogni volta che si parla di cocaina pare che stiamo parlando di, non so... omicidi e cose terribili, ma non è una cosa così grave. No, ma io non ho nulla però, contro. Ragazzi, ma stiamo calmi. Adesso qui è una trasmissione di grande libertà, una trasmissione in cui ognuno può dire quello che vuole. Uno che magari si fa due botte a settimana come un cocainomane che vede a parte mostri, che quello a parte che quello se ne faceva di più di botte, assolutamente, cioè, a parte che quello lì c'ha un naso che è un aspirapolvere, ma non è come le sigarette, non è come le sigarette, no? Diverso, ma a me non me ne frega niente, fa male come le sigarette, non puoi paragonare la cocaina alle sigarette, non diciamo cazzate, dai, tu ti fai di cocaina? Abbastanza spesso, cioè, ragazzi, ma qui è un popolo è un po', e giustamente dicono, come giustamente dicono, è pieno di italiani che si fanno botte di cocaina di continuo. Sì, ma sì. Costa meno veramente delle sigarette, a parte tutto, quindi... quella che fa schifo, certo. Sì, è probabile, sì, cioè, no perché si trova pure buona, ma uno lo può comprare, ho capito, ma internet, che ti serve, però così per passare una serata tra amici. E come ti senti con la cocaina? Beh, diventi un po' più attivo, no? Ma non è meglio andare a teatro a vedere Shakespeare? Ma che c'entra il teatro? Sì, tu no, magari io vado a teatro, a me piace andare a teatro. Cosa c'entra? Lavoro, ma non è una... normale, ma non è un'alternativa, David? Come se le cose non le conoscessi. Ma io non mi scandalizzo di nulla, me ne frega niente, figuriamoci. No, per esempio, molti dicono che... che mi scandalizzo, conosco un sacco di gente che... Molti dicono, per esempio, dicono che all'uomo la cocaina non fa tirare il pisello, Lucia. Ecco, questo appunto. Così c'è poco da fare. Se pippi cocaina e bevi alcol, soprattutto, niente. Nisba, ne sai qualcosa, Lucia? Ma pure le donne, non è che se io pippo poi dopo c'è il scopato, diciamo, parliamone chiaramente. Cioè, nessuno... si abbassa la libido drasticamente? Sì, cioè, proprio l'ultima cosa che vuoi fare. E allora che divertimento c'è, scusa. Ma ci sono quella... amiche che in realtà no, hanno cioè, non so, gli sono fa più, sangue la cosa. Sono sì, più libere. Sì, no, più libera, cioè da loro viene voglia facendo, cioè, pippando, però boh, è una cosa abbastanza soggettiva. Ma quante botte ti fai tu? Che ne so, puoi spendere 40 euro una sera o un po' di più, ma una volta a settimana. Una volta a settimana, sì, adesso. Sì, il sabato sera così, venerdì. Tu immagino che voti, lei immagino che voti no al referendum. No, perché? Io voto no. Ma perché dovrebbe votare no? Non ho capito perché. Allora, tutti quelli che votano no. Sto scherzando. No, ma non ho capito una cosa, Lucia. Allora, io non ci credo. Quando uno dice pubblicamente una volta a settimana. Sì, in realtà, anche secondo me. Sì, no. Guarda, io ci vado proprio perché per parlare onestamente. Cioè, magari, ecco, settimana scorsa niente, la settimana prima due volte. Quindi, così. Ma che sensazione di te? Ti senti meglio? Ti senti più... No, ma meglio, più attivo, più pieno di energie. Magari puoi fare più cose durante la serata. E non pensi di essere dipendente? Si parla tanto. Non pensi di essere dipendente, no? No, perché magari, ecco, il cocainomane si fa durante la settimana, durante il lavoro. Ma io non ci credo a quelli che riescono a pipparsi solamente il weekend, dai. No, ma ti assicuro che è una cosa normalissima, almeno no, ma lo so, ma non credo che uno poi si possa limitare al weekend, cioè alla fine poi diventa una roba che... No, guarda, va avanti da tanto, perché è una cosa della chimica del cervello. Quanti anni hai tu? 31. E da quant'è che hai iniziato? Beh, io saranno per 10 anni, però ti ripeto, magari anni più intensi, anni più di cazzeggio, quindi più leggeri, ecco. Certo. Vabbè, ragazzi, comunque fa male, non c'è caso, non sì, vi fate, è vero, non è vero, vi fate, male, non cose, vi fate, male, è vero, tante cose fanno male, non vi fate ingannare da Lucia che c'è questa voce tutta bella, arrapante, bella... Cioè, bella, fresca, così a 31 anni, così ogni tanto ma mi faccio... Ma Lucia ascolta anche Barisoni? Ma non credo. Io amo Barisoni, ha una voce veramente sexy e lo ascolto. Sì, però, però adesso ho imparato mille cose è leggermente occupato in una... Diciamo, da... No, non so niente. Mi dispiace. Amica mia. Leonardo da Roma, vai. Leonardo, ciao Lucia. Non so niente. Leonardo, vai. Sì, buonasera Parenzo, buonasera Cusani. Dimmi. Nulla, io faccio una premessa molto... No, non devi fare premesse perché è già tardi, per cui vai diretto. Lo so che è tardi, siamo in chiusura, eh? Sentire Parenzo, lo so che è in chiusura, sentire Parenzo fare una battuta così di cattivo gusto nei confronti di quella persona che era in ospedale e che ci rimaneva da ormai 12 ore nel pronto soccorso, mi ha fatto rimanere molto male, anche perché... In Italia purtroppo si muore di malasanità. Sì, allora, Mauro D'Amanto, allora Mauro Manto, ne ha dette talmente tante su Parenzo che credo una battuta sul ricovero di Mauro. Dai ragazzi, ma però non vi scandalizzate per queste cose succedono alla Zanzara, dai. Però non è corretto. Io poi tra l'altro Parenzo ho avuto anche l'onore di conoscerlo perché è stato ma che c'entra onore o non onore? Ma non è... Però no, vabbè, in una sua struttura, ma chi se ne frega? Dai, Leonardo, allora... In Umbria, Parenzo, a Castiglione del Lago, in Umbria. In Umbria, dove? A Castiglione ma ragazzi, ma chi Lago, se ne frega? Ma chi se ne frega? Bravo, sì, certo, però... E dispiace, capito? Perché magari quel bravo posto bellissimo, mi ricordo. Grazie. Stavo lì da 12 ore e purtroppo ha sbagliato, perché definendo comunisti di merda e usando. Ma è su questo, dai, su. Insulti, ho capito, però dire che facciamo se no, ma era solo su questo. Dispiace, d'accordo, però. Vabbè, Emilio da Roma, vai, Emilio. Ciao Leonardo, Emilio. Pronto? Non si sente niente. Federico d'Alessandria, vai. Ciao Crucià, dimmi. Ascoltami, ma senti, io ieri mi sono incazzato da morire guardando quella cazzo di trasmissione. Sì, quale? Quella cazzo lì dalla parte lì, dalla parte della Mussolini. Dalla vostra parte, no, dalla sì, parte della Mussolini, parte. Dalla vostra parte in Torino. Sì, poi vabbè, era anche dalla, vabbè, più o meno la stessa era anche cosa. Da, anche dalla parte della Mussolini, però. Sì, vabbè, senti, ma io questo ragazzo qua lo seguo sul web da una vita, ma è un cretino. Io sono rimasto allucinato quando ho visto che lo prendevano sul serio. Volevo spararmi. Ieri ridevo. Oggi, riguardando la trasmissione, mi sono veramente. Ma è, lui li ha presi per il culo tutti. Cioè, questo ma bello certo, figo li certo. ha presi tutti per il culo. Cioè, c'erano tutti questi indignati. Quella del PD che si indignava. Oddio, lei sì, ma poi tutti, non, tutti, può tutti, tutti. Non può dare questa impressione degli immigrati. La Mussolini che lo voleva pigliare a calci nel culo. Magari molti recitavano anche una parte. Ecco, un altro immigrato, sempre di colore, che diceva: bisognerebbe prenderci a calci nel culo perché tu dai una brutta immagine, eccetera. Poi c'era pure Poletti indignato. Vergogna. Sei uno che vuole stuprare le donne, eccetera. Dai, ragazzi, il vincitore è lui, bello figo, numero uno. Ciao, ragazzi, ci sentiamo lunedì. Purtroppo ci saranno i risultati del referendum. Ci faremo due coglioni così. Ciao, Zanzarosi. Andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.